è giunto fin qui dalla Francia. Questa presenza così diversificata nella provenienza costituisse per un istituto culturale come il nostro, nato nello spirito dell'autonomia del Trentino, una prova che le energie autonomistiche, lungi da chiudere una comunità entro i propri confini, possono proiettarla in una prospettiva culturale più ampia. Sento a questo punto il dovere di ringraziare il professor Monsignor Ginio Roger, il presidente dell'Istituto di Scienze Religiose dell'Istituto Trentino di Cultura, che ha reso possibile la realizzazione di tale iniziativa, e il professor Massimo Baldini, che ha coordinato sul piano scientifico, e tutti coloro altri, anche della nostra organizzazione, che hanno cooperato per la migliore riuscita. Auguro buon lavoro e grazie. Io avevo accettato di buon grado, e lo faccio volentieri, di portare i saluti della città a tutti i convenuti, agli ministri e relatori, e ringraziare l'Istituto Trentino di Cultura nella persona oggi del suo vicepresidente, il presidente dell'Istituto per le Scienze Religiose, Monsignor Gino Roger, per aver consentito che questo convegno oggi si svolga qui. A voi che ascoltando prima, e lo ripeto ad alta voce, a Monsignor Roger, per noi politici così desueti da temi oggi in discussione, preferirei quasi che mi desse il silenzio piuttosto che la parola. Ma era una battuta scherzosa. Quella che invece può essere una brevissima riflessione, un pensiero che ho fatto questa mattina venendo qui, è quello che sempre più per i politici e per gli amministratori si ha la sensazione che si riducano gli spazi e i tempi delle riflessioni interiori. Non credo che questo dipenda solo ed esclusivamente, o penso che sia un po' un alibi nostro, che dipenda solo dalla frenesia della vita di oggi, dalle questioni che ci tirano da una parte e dall'altra per questioni molto più materiali che non quelle delle riflessioni interiori. Questa tendenza è, lo dico un po' con amarezza, è accentuata, se si vuole, dalla scarsissima presenza, direi dall'assenza dei politici oggi qui a questo convegno. Ognuno, non lo dico con cattiveria o con malizia, ognuno avrà la sensazione di esserne giustificato. Io stesso non faccio eccezione, sono venuto volentieri a portare il saluto, ma poi mi vedrete rapidamente scomparire da quest'aula. Ecco, questo purtroppo è, credo, una abitudine che andrebbe da parte nostra sconfitta, lo dico con assoluta umiltà. Credo che dovremmo riflettere di più. Questo perché poi ci porterebbe probabilmente anche ad agire con maggiore coerenza nelle azioni quotidiane che diciamo spesso che debbono essere rivolte alle nostre comunità, ma forse troppo spesso lo sono poco. Forse posso approfittare un attimo anche della estrema elegante concisità dei miei predecessori, per dire una parola così come mi sta sul cuore in questo momento. È la prima cosa che sento di dover assolutamente dire con sincerità e spontaneità è quella di una profonda soddisfazione da parte mia personale e da parte dell'Istituto per essere arrivati a questa mattina dell'inizio di un convegno come questo che stiamo aprendo. L'idea è maturata non in 5 minuti e tuttavia la realizzazione è maturata in un tempo, direi, meravigliosamente breve e condensato. Abbiamo fatto un incontro nel marzo, esattamente l'11 e il 12 di marzo, a raggio più ristretto qui, sul tema silenzio, mistica e profezia, animato in modo particolare dal professor Baldini e da Quinzio, che vedo e saluto cordialmente, però in mezzo a noi, con cui abbiamo passato qualche ora veramente di forte intensità spirituale. Ed è stato in quel contesto che abbiamo cominciato a chiederci, o meglio, io mi sono sentito così in continuare la proposta molto dolcemente e con modo convincente da loro, però perché non un convegno più consistente sulla parola e il silenzio? E così è partita la impresa dell'organizzazione di questo convegno, diretta appunto dai due prima nominati in modo particolare e dal nostro professor Zucal, che ha seguito molto minutamente come coordinatore sul posto la realizzazione dei rapporti e insomma dell'adesione alle relazioni e così via. E insomma è stata una cosa facile per certi versi, perché abbiamo trovato subito notevolissimi consensi e preziose adesioni. Come sempre accade, anche non facile, magari per ragioni contingenti, sull'uno o sull'altro capitolo, e quindi però insomma tutto questo è stato risolto, e risolto bene, e il programma che loro hanno davanti, vero, riflette ormai la realizzazione dell'avvio. Ecco, mi compiaccio fortemente perché i nomi dei relatori, temi più proposti, personalità presenti, e anch'io devo veramente esprimere il nostro particolare omaggio e riconoscenza al Lama Venerabile Chen Chau, spero di non andare fuori del tutto del seminato, comunque contatteremo anche personalmente, cercheremo anche di verificare qualche errore di pronuncia e forse di pensiero anche nel colloquio con lui, però perché mi pare che corrisponde assai a quella che è l'indole, le intenzioni, il compito dichiarato del nostro istituto, vero, che si sente chiamato a aiutare la riflessione in tutto l'arco della problematica religiosa. Non c'è da stupirsi se, trovandoci qui tra noi, vero, che aderiamo in massima parte e che abbiamo una tradizione di una determinata confessione religiosa, insomma c'è una decisa prevalenza di interesse verso la religione cristiana e cattolica, però abbiamo voluto esplicitamente e sentito tutti indistintamente la necessità che questo interesse si allarghi, perché solo da un approfondimento universale, da un confronto veramente sensibile con tutti gli aspetti della religiosità possiamo crescere in profondità. E per questo sento la tematica, la composizione dei temi, l'interdisciplinarietà a cui è stato già accennato, l'incidenza culturale del tema proposto, non soltanto religiosa, ma l'incidenza culturale generale del tema proposto, come estremamente rappresentativi, vorrei dire, per quelle che sono le intenzioni, i propositi del nostro istituto. Aggiungo che in modo particolare sono partecipi, oltre i relatori e gli illustri presentatori di comunicazioni e interventi, di cui vedete un numero molto folto e nutrito, che vengono da fuori, sono tra di noi locali, sono poi particolarmente ospiti, di diritto di questo seminario, i frequentanti del corso istituzionale di scienze religiose che noi dall'anno scorso abbiamo messo in cantiere, offrendolo in modo particolare ai futuri insegnanti di religione nelle scuole, ma aprendolo anche a tutti coloro che nell'ambito della nostra città e regione esplicano o sentono un interesse peculiare per l'insieme del nostro programma oppure per singole materie di questo. Questo lo voglio ricordare anche perché gli stessi maestri di questo incontro terranno certo conto di questo gruppo, di abbonati stabili, costituzionali di questo gruppo che di diritto partecipa a questo nostro seminario. Ecco, questo mi pare la cosa più importante che io devo dire per quanto riguarda il nostro istituto. Che devo dire sul tema? Sul tema non voglio certo inoltrarmi, perché mi ammonisce il titolo stesso, ovvero ad essere estremamente guardingo, e noi preti in chiesa andiamo troppo esagerando anche nelle celebrazioni liturgiche, che dovrebbero essere fatte in buona misura anche di silenzi, oltre che di parole, no? E quindi mi devo legare la bocca a questo riguardo e essere piuttosto parco. Tuttavia non posso non dire che il tema mi impressiona assai, e non da oggi, e che il tema veramente, per quanto lo sento, fuga veramente nelle profondità non solo dell'animo religioso, ma anche della teologia e della mistica cristiana e cattolica. Ecco, mi ricordo tante volte anche in chiesa quella grande parola di Ignazio di Antiochia nella lettera agli Efesini, dove parla dei misteri clamorosi, è già messa insieme qui, se volete, la diade dei due concetti: misteri clamorosi operati nel silenzio di Dio, quale è la verginità di Maria, la nascita di Cristo e la sua morte in croce. Misteri clamorosi operati nel silenzio di Dio. E sono questi che formano in fondo l'oggetto della nostra attenzione, della nostra celebrazione, della nostra speranza. Quindi una certa omogeneità ad essi è estremamente opportuna. E mi cito per ultimo una parola che ho sentito di recente dal Cardinal Martini e che mi illumina di nuovo sulla situazione sociale, politica di questo nostro mondo, dove quasi quasi si potrebbe tradurre il famoso proverbio tedesco quando dice che vor lauten Bäumen sieht man den Wald nicht mehr, che a forza di alberi non si vede più il bosco, e quasi applicandolo al caso nostro si potrebbe dire che a forza di parole in questo mondo nostro non si coglie più il senso, a forza di parole non si trova più il senso. Ecco, il Cardinal Martini diceva, guardando alla nostra situazione odierna, che il maggior nemico di Dio, a suo avviso, non è tanto l'ateismo moderno, ma il rumore. Non dico di più, perché bisogna anche rispettare il silenzio. Auguro buon lavoro e secondo risultato a tutti. Grazie. E quindi adesso consegno la regia della giornata al professor Baldini, con ringraziamento e plauso per quanto ha fatto, e credo che appunto, oltre che dal lato entitativo, vero, la parola spetta a lui come coordinatore e ispiratore principale di questo incontro, ma anche con espressione di riconoscenza e di riconoscimento per quanto egli ha fatto per noi. Scusi, alla fine facciamo gli interventi, alla fine abbia cortesia. Abbia cortesia, abbiamo i tempi per gli interventi, c'è una parola nel libro dell'Ecclesiastico, mi pare, che dice: c'è tempo di tacere e c'è tempo di parlare, e c'è quello che tace perché non sa parlare, e c'è quello che tace sapendo quel che è il tempo giusto. Quindi tempi e tempi. Funziona? Sì. Dunque, autorità, convenienti, signore e signori, sono molto lieto di introdurre il convegno interdisciplinare dedicato al tema che tutti ormai conoscono, il silenzio e la parola. In primo luogo sento il dovere anch'io di ringraziare il presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, il senatore Bruno Kessler, il sindaco di Trento, l'architetto Adriano Goio, Monsignor Gino Roger, che è il presidente dell'Istituto di Scienze Religiose, e in ultimo, dolcissimo fondo, il professor Giovanni Menestrina, che è il segretario dell'Istituto di Scienze Religiose, e l'amico carissimo, il professor Silvano Zucal, che hanno fattivamente operato affinché il nostro convegno riuscisse al meglio. Ecco, devo dire che i tempi che abbiamo sono tempi estremamente rigorosamente limitati, perché abbiamo ben 11 relazioni e oltre 30 comunicazioni. Dai titoli si annunciano tutte molto palatabili, molto relazioni che, e comunicazioni che posseggono un potere fortemente fascinatorio. Quindi dobbiamo rispettare, qui sarò un po' il butta dentro e il butta fuori della situazione, dobbiamo rispettare rigorosamente i tempi che ci siamo dati. Il programma avrà la scansione che è stata determinata a suo tempo, con una sola variante: la relazione del professor Sergio Quinzio viene anticipata stamani mattina, questa è l'unica variante che il programma contempla, perché il professor Dario Antiseri si scusa con i colleghi e con i convegnisti, è stato trattenuto a Roma al Ministero della Pubblica Istruzione per un concorso e soltanto in nottata sarà dei nostri. Quindi la relazione dell'Antiseri prevista per stamani mattina andrà con molta probabilità a domani mattina. Al termine delle due relazioni del professor Alberto Caracciolo e del professor Quinzio avremo una breve pausa per riprendere i lavori a mezzogiorno e chiuderli intorno all'una, e in quest'ora avremo tre comunicazioni: quella del professor Marco Vannini, Predica Verbum, la generazione della parola dal silenzio in Meister Eckhart, la relazione della professoressa Angela Alice Bello, il linguaggio della mistica nella scienza crucis di Edith Stein, e la relazione della professoressa Gemma Corradi Fiumara, il problema dell'ascolto. Al termine, durante la serata, verrà distribuito l'elenco delle comunicazioni e la loro scansione nei tre giorni del convegno. Detto questo, e invitando tutti ad un uso omeopatico della parola e invece a un uso diluviale del silenzio, nonostante la scansione silenzio-parola presupporrebbe un accordo 50-50, richiamando le cose che ho detto in precedenza, invito ad usare accorgimenti di questo tipo. Presento anch'io, a dosi minimale, una brevissima introduzione al tema del convegno, invitando subito dopo il professor Caracciolo e Quinzio a venire al tavolo della presidenza. Mille sono i fili che legano la parola e il silenzio. Del resto, da più parti si è affermato che la parola perisce quando viene meno il silenzio su cui poggia. Bavarder, ha scritto Maurice Blanchot, è la honte du langage, e la chiacchiera è il disonore, la vergogna del linguaggio, perché è un parlare puramente palatale, un emettere rumori e non suoni. E questi purtroppo sono tempi in cui la chiacchiera è diventata la parola di tutti, dal politico al teologo. Sul finire di questo secondo millennio gli uomini vivono con la nostalgia del silenzio e nel contempo con la paura del silenzio. Da esso l'uomo dei nostri giorni è affascinato e contemporaneamente atterrito e smarrito. Ha nostalgia del silenzio perché è ridotto ad essere un appendice del rumore e nello stesso tempo prova nei suoi confronti un sentimento di paura. Il silenzio lo sgomenta, lo disorienta, lo tortura. Conosce solo silenzi da noia o da angoscia, silenzi per difetto. Sartre parla del silenzio come di un qualcosa che è essenzialmente mostruoso. L'uomo, gli scrive, si trova solo, girovagando per questo silenzio mostruoso, libero e solo, senza assistenza e senza scuse, condannato a decidere, senza appoggio di nessun genere, condannato per sempre ad essere libero. Per Camus è irrazionale. L'assurdo, gli afferma, nasce dal confronto fra la necessità e il silenzio irrazionale del mondo. Per Edmond Jabez, infine, il silenzio vero è terribile e insopportabile per noi. Tanto il silenzio quanto la parola appartengono alla struttura fondamentale dell'uomo. Silenzio e parola costituiscono una inscindibile unità. L'uomo ha bisogno di silenzi come di parole che posseggono una carica infinita di silenzi luminosi e pieni. Il mutismo, come la chiacchiera, umilia il silenzio e la parola. La scuola del silenzio ci insegna ad odiare la non parola, la parola che è solo voce, chiacchiera, la parola che è diventata una passiva ancella di shock sensoriali, ma ci insegna anche ad amare la parola pensata, la parola inaugurale, la parola sorgiva, la parola festiva, la parola che si presenta sulle labbra come se fosse al suo primo mattino, la parola che scopre nuove sorgenti di pensiero, la parola che è, per dirla con Celan, sorvolata di stelle, inondata di mare. Il tema che affronteremo in questi tre giorni, il silenzio e la parola, non sarà mai un tema alla moda, un tema che finirà travolto dalla convenienza. È però un tema potentemente attuale. Infatti, per l'uomo del XX secolo, che vive quotidianamente in una situazione di anarchia acustica e visiva, che è assediato da troppi rumori, che parla parole desertificate, che ha sperimentato il silenzio solo come silenzio del vuoto del nulla o come fuga davanti a Dio, ebbene, per un uomo siffatto, il nesso che lega silenzio e parola possiede una sua forte attualità. Ecco quindi che ritengo, e penso a buon ragione, che sarà di qualche interesse ripercorrere nelle relazioni e nelle comunicazioni che ascolteremo nei prossimi tre giorni i nuclei di fondo delle molteplici dimensioni che posseggono il silenzio e la parola. Grazie. Allora invito il saluto il sindaco e Monsignor Roger che ci lasciano. Ah, lei è perfetto. E invito il professor Carassolo e il professor Quinto ad accomodarsi al tavolo della presidenza. Prenderò l'avvio da tre citazioni leopardiane. Gli uomini sono miseri per necessità, risoluti di credersi miseri per accidente. Pensieri, 31. Il male è cosa comune a tutti i pianeti dell'universo, dice la Luna alla Terra nel dialogo della Terra e della Luna del 1824. E prosegue. Se tu potessi levare tanto alto la voce che fossi udita da Urano e da Saturno e da qualunque altro pianeta del nostro mondo, e interrogassi se in loro abbia luogo l'infelicità, e se i beni prevalgono o cedano i mali, ciascuno ti risponderebbe come ho fatto io. Dico questo per aver dimandato delle medesime cose Venere e Mercurio, ai quali pianeti di quando in quando io mi trovo più vicina di te, come anche ne ho chiesto ad alcune comete che mi sono passate dappresso, e tutti mi hanno risposto come ho detto. Terza e ultima citazione leopardiana. Gli individui sono spariti dinanzi alle masse, dicono elegantemente i pensatori moderni, le quali masse. Che cosa siano per fare senza individui? Essendo composti di individui, desidero e spero che me lo spieghino gli intendenti di individui di masse che oggi illuminano il mondo. Dialogo di Tristano e di un amico, 1832. Appare qui, pensato con ferma lucidità, un pensiero antichissimo dell'Oriente e dell'Occidente. Pensiero fondamentale Se l'uomo può a tratti dimenticare o occultare se stesso, ma che la realtà presto, bruscamente, non di rado tragicamente, qui la realtà presto, bruscamente, non di rado tragicamente lo richiama. L'idea di un dolore, di un male, di una negatività originaria che segna costitutivamente di sé la natura e perciò il destino dell'uomo, anzi di tutte le creature, di un peccato mundi, amartia tu cosmo, per usare la parola di Giovanni 1,29, di un male mundi, diverso dai mala in mondo, anche se concretamente rivelantosi all'interno di questi. Altro rispetto a questi, perché diversamente da questi indistruttibile per buona volontà umana. La dimenticanza o la rimozione di questo Urleiden, per dirla con la parola più consueta, nei testi che parlano appunto delle religioni dell'Oriente e dell'Occidente, e di questo peccato di origine ontologico non è dovuta sempre a superficialità. Può essere avvertita auto ed etero imposta come un comando morale. Il sostare nello spazio e nel silenzio, necessariamente metacosmico, ultramondano, in cui esistenza, storia del mondo, storia degli uomini, storia del mondo, per rivelare il sigillo di negatività segnato nella loro struttura ontologica, hanno dovuto e debbono farsi in qualche modo remoti, il protendersi religiosamente invocante e ascoltante, filosoficamente interrogante, poeticamente meditante a quello spazio, a quel silenzio, possono apparire come colpevole diversione quando il modo del vivere e del morire cui sono condannati milioni e milioni di esseri umani grida, inascoltato, al cospetto degli uomini prima che di Dio. Se torna spontaneo muovere dalle parti, è perché l'ascolto attento, docile e libero, è una stupenda parola heideggeriana, la Gelassenheit, in freien Hören, mi pare di poter tradurre la docile calma del libero ascoltare, comunissimi sapienzie ermeneutiche, questo Gelassenheit, in freien Hören. Dunque, anche il nostro, nei limiti delle nostre possibilità, cercherà di essere un ascolto docile e libero di questa come di altre parole, della parola di Leopardi, detto più correttamente nel tentativo di cogliere nella e attraverso la parola di Leopardi quel che in e attraverso questa parola voleva dirsi, può portare non poca luce oltre che su altri punti della riflessione sollecitata dal tema proprio su questa obiezione che fu centrale e ricorrente nel discorrere scritto e parlato, teologico, filosofico, letterario degli anni 60 e 70. Tutti, almeno i non giovanissimi, ricordano. La liturgia non è orazione, ma azione. Azione volta a incidere sull'altro e sugli altri, non primieramente attraverso un rapporto diretto da singolo a singolo, da singolo a singoli, ma attraverso la modificazione delle strutture socio-economiche e politiche. Il luogo vero della sua celebrazione non è il tempio, ma l'agorà o la polis. Questa è la liturgia. La filosofia non è teoresi, ma prassi. Non l'interpretare, ma il cambiare il mondo è il suo compito. La poesia non è catarsi, concetto e termine allora al pari di consolazione tra i più ironizzati ed esorcizzati, ma engagement. È tempo che Edipo, Amleto, Fausto, prendano commiato dalle scene e dalla scena, a meno che non riescono a dimostrare, vedi Lucacci, che il loro tragico detto sul vivere, il loro silenzio, alludo naturalmente al fatto famoso, poi conosciuto come il detto di Sireno, dell'Edipo Colono, il silenzio alla chiusa dell'Amleto, e sul resto silenzio, la loro vana ricerca della Bethlehem folle, della divina pienezza, nel tempo mortale, ricordano l'invocazione all'Augenblick nel Fausto di Goethe, la loro vana ricerca della Bethlehem folle, nel tempo mortale, nasceva dalle ingiustizie, a meno che non riescano, devono scomparire, a meno che non riescano a dimostrare che tutte queste cose nascevano dalle ingiustizie della società. E che il loro dolente inno, per usare la parola di tutti, era in realtà grido rivoluzionario. A rendere possibili tali atteggiamenti mentali e pratici di quella stagione della parola senza silenzio, del parlare senza dire molto spesso, occorreva non sempre e non necessariamente, ma spesso l'utopia di una rivoluzione planetaria ogni redentrice. Noi sostanzialmente sotto diverso segno si collocano molte delle analisi sociologiche che si lessero quando la coscienza del peccato mundi, della dialettica niente nulla, dello spazio in cui emergono nella loro infinita trascendentalità i due poli di tale dialettica, quando la coscienza della dialettica fede opere, del condizionamento che una risposta di fede costituisce per la possibilità dell'impegno nelle opere e del condizionamento, anche questo va sottolineato con tutta forza perché altrimenti saremmo peccatori nel senso più profondo e cristiano del termine, e del condizionamento che l'impegno nelle opere costituisce per l'attingimento di una fede, cominciò a rivestarsi. Si parlò di riflusso, di retrocessione dalla civiltà dell'etico alla primitività del religioso, come se il religioso si identificasse col sacro o il sacrale, col mitico e col magico. Si parlò di ricaduta dal critico al dogmatico, palesemente confondendosi da un lato res olim indissociabile, secondo la parola di Tacito. Era il principato superiberta, superiberta, e qui criticità e polemicità, dall'altro confondendosi termini tra loro certo non relati, ma che non devono essere tra loro confusi. Il religioso, fede, religione, religione confessionalmente, intesa superiore, confessionalmente non è significato, che può anche positivo, intesa. E siccome questo è un concetto a cui tengo molto questa distinzione, non sempre serbata, e io sono maestro di scuola, e quindi tendo molto alla chiarezza in ogni mi permettono di leggere una cosa, e questa distinzione, una mezza pagina su questa distinzione. Il religioso in sé per sé considerato è domanda, è l'interrogazione di Giobbe, l'interrogare di Giobbe, l'interrogare di Cristo sulla croce. Tale interrogare cerca una risposta, non certamente solo per bisogno di consolazione, bensì perché è alla ricerca di un fondamento dell'impegno etico. Fine per se stesso, il religioso è il semplice opposto di quiete, di consolazione, evasionismo, di anime belle e fragili. È l'antitesi della certezza e delle certezze, l'origine stessa dell'interrogare radicale, della domanda che incide in ogni possibile domanda umana, dell'invocazione che inerisce ad ogni possibile preghiera. L'origine stessa dell'interrogare e dell'invocare radicale è pertanto sorgente della faticosa libertà del singolo. Suo simbolo può essere quella nube carica di interrogativi di cui parla Nietzsche. Per parecchie ragioni è opportuno tenere distinto il momento religioso dal momento della fede. Il primo è il momento dell'interrogare, interrogare che è serio, sulla condizione di essere realmente interessato a una risposta positiva, è realmente impegnato a raggiungerla. Ciò nonostante l'interrogare religioso può rimanere senza risposta, ed è bene ricordare e sottolineare che il dubbio vive sempre all'interno della fede, anche della più salda, quando la fede è autenticamente vivente. Credo domini, adiua, incredulitate mea, Marco 9:24. Giova, però, anche aggiungere che esiste pure un narcisismo del sofferente interrogare, una sottile e contagiosa retorica del pessimismo. Il secondo momento, quello della fede, è il momento della risposta, dunque. Risposta significa dire sì, lo yasaken di iniziana memoria. Dire un sì, perché non esiste solo il sì e il no. Esistono tante, tanti sì e tanti no. Precisato questo, credo che possiamo. Religione, uso questo termine, naturalmente ogni termine in filosofia ha tanti significati. Quello ton con la cosa legata, l'essere si dice in molti nomi, si può ripetere di tutti i termini essenziali della filosofia, anche il silenzio di cui veniamo, e si che con la cosa legatai, nella stessa così felice presentazione dell'amico Baldini, è emerso che il silenzio ha un significato positivo, estremamente positivo, e un significato negativo. Le parole dell'Ecclesiaste o dell'Ecclesiaste, è vero, c'è tempo di, alludono a due forme di silenzio, assolutamente antitetiche. Basterebbe questo, dunque, la polivalenza e la semanticità del tempo. Dicevamo dunque che Leopardi molto aiuta nei confronti del problema di cui veniamo parlando, che è il problema del condizionamento, che la risposta o non risposta che nel dominio del religioso sia data di attingere alla domanda delle domande, rappresenta per la possibilità delle opere. Pisci serra, fides opera, la fede come possibilizzazione, sostanza, movente delle opere, è l'indicazione che viene da Paolo e dalla tradizione che a lui si ricollega. Leopardi ha in certo modo in modo strano e paradigmatico esperito e pensato la profondità e la fondamentalità di queste indicazioni. Meditabile, non certo solo per quelli, meditanda, non certo solo per quelli per i quali la parola fede si lega al Cristo. Al binomio pisci-serga si sostituisce in Leopardi il binomio poiesi-serga. Poiesis è poieticità, come poiesteri, prima ancora che come poiei. Sorgività, aurora sui et mundi, di un mondo in cui l'ombra del peccato d'origine ontologico è vinta da una luce di senso, di valore, di eterno. Dalla variazione poesis opera viene un'indicazione profonda. L'esperienza di Leopardi è crisi della fede, delle fedi. Crisi della fede e delle fedi non però per un attenuarsi, bensì piuttosto per un intensificarsi, o quantomeno nell'intensificarsi dell'invocazione e dell'interrogazione radicale, cioè religiosa. Crisi della fede, delle fedi è in Leopardi non crisi di una Glaubens lehre, di una dottrina, di una teodicea razionale, ma un arricchimento della sorgente da cui scaturisce con una qualche lucida eterno la vita, l'amore della vita, la passione, l'azione, la storia, lo yasaken di mesiana memoria. Quando tutto questo richiami esperienze e pensieri di mistici o filosofi, esperienze e pensieri affidati in quelli ad altri nomi, creazione, nascita, grazia, rivelazione, è fin troppo evidente. Quanto mai suggestivo sarebbe un confronto tra la nascita eterna dell'anima, fondo dell'anima in Dio, e di Dio nell'anima, fondo dell'anima in Meister Eckhart, e la poiesi col suo corrispondente negativo, l'aridità, l'arida vita in Giacomo Leopardi. Ma c'è chi, un conoscitore profondo, maggiore conoscitore qui in Italia oggi di Meister Eckhart, che avremo modo di sentire da altri conoscitori di Leopardi, superiori a me, che potranno, se lo credono, riprendere, o se non in questa sede, in altre sedi, questo parallelo, che può essere antitetico, ma è estremamente illuminante, anche per quelle che si dicono le esperienze mistiche, altra parola estremamente ambigua, vero? E mi è sempre stato difficile capire come Meister Eckhart possa essere messo assieme a Santa Teresa d'Avila, per esempio, tanto personalmente, dico soggettivamente, non voglio ma per me è molto difficile questa cosa, e psicologicamente per me. E perché le esperienze, non è vero che le esperienze mistiche siano esperienze del passato, sono esperienze eterne, sono che altra figura. E il famoso distinzione tra l'identico, il medesimo e l'uguale, di heideggeriana memoria, il das selbe e il das gleiche. Bisogna riconoscere, avere il coraggio e la capacità di riconoscere nel diverso l'identico, nel non uguale il persistere. Perciò dico che questo a me pare un, non so, può darsi che sia stato già fatto, ma non, perlomeno io non ne conosco, non lo conosco. Dunque, ma non si potrà chiedere, perché non muovere proprio lei, come studioso di filosofia, invitato gentilmente ad aprire questo convegno sotto il segno della filosofia? Perché non muovere da un filosofo anziché da un poeta? A parte che Giacomo Leopardi fu filosofo, si tratta di vedere se quello che di essenziale disse, come lo disse, se come filosofo, come poeta, eccetera. Adesso non entriamo, perché non è qui un convegno leopardiano, ma è un convegno di silenzio sulla parola, e Leopardi ti aiuta, ma non è Leopardi come Leopardi che ti interessa. Dunque, la risposta è semplice, direi che è per una ragione filosofica, per richiamare subito, fin dalle prime battute, un punto che è, così a me pare, fondamentale per la meditazione del nostro tempo. La verità che ultimamente conta, la verità nell'orizzonte, nel respiro del quale ogni altra cosiddetta verità scientifica, storica, in forma consapevole, inconsapevole, sempre comunque è, l'uomo non attinge solo nel dominio e in virtù del noè in filosofico, bensì in figura diversa, ma nella sua autentica indicatività, ma non nella sua autentica indicatività divergente, in ciascuno dei modi in cui si articola il suo esistere. Il pluriprospettivismo, di cui tanto si parla, si afferma non solo nella comunità dei singoli, ma innanzitutto nella unità, complessamente, spesso conflittualmente unitaria, pluridimensionalità del singolo. Il pericolo da cui bisogna guardarsi è dall'assolutizzare uno dei modi, la verità si attinge nel poetico, la verità si attinge nel noetico, nella filosofia, la verità si attinge nell'orazione, si attinge nell'impegno etico, si attinge nell'amore, si attinge in tanti modi. Non bisogna cadere in una delle cose, che ci sia un modo privilegiato e assoluto di questo attingimento rispetto a quelli gli altri modi devono essere costituzionalmente in semplice atteggiamento servile. È quello che è stato fatto tante volte ed errore che non è stato, come tutti ricordano, che è stata l'epoca in cui il momento appunto mistico orante era l'essenziale e non la filosofia. C'è stato il momento in cui l'illuminismo, sia pure l'illuminismo schematicamente inteso e non filosoficamente pensato, ha invece il momento della ragione, la ragione ragionante. Il romanticismo, il momento della poeticità, della poesia, è nella poesia, è vero, non è solo Schelling che dice questo in una fase del suo iter complesso e profondo, e conforme anche, ma è un po' tutta l'idea dominante del clima romantico. Noi torniamo a un'idea oggi, la filosofia più pensosa torna a questa idea che la verità si attinge per tanti modi, in modi più complessi, in modi diversi, e che l'uomo è un essere che si arrabbatta e deve valersi di tutte le sue forze, di tutte le sue dimensioni per attingere l'unica verità, che però si manifesta in modo spesso diverso e conflittualmente all'interno del suo stesso essere. Questo è uno dei punti, e un punto molto meditabile e degno di è quel famoso pensare originario, è quello ursprüngliches Denken o andenkendes Denken, che secondo Heidegger è prima della noesis, prima della poiesis, prima della praxis, come dice al termine dell'umanismo sbrief, ma che dice poi sempre più. E questo pensare, questo è un pensiero non ancora sufficientemente pensato, e c'è un pensare originario che forse non esiste nella sua purità, ma che incide già uno e differenziato nell'orare, nell'interrogare filosofico, nel contemplare poetico e via via, nell'operare. Questa è la verità, forse, è di questo pensare, è affidata a questo pensare originario. È lì allora che i diversi modi di attingimento della verità si unificano, si unificano in questa parte hominis, a parte obietti, a parte dell'oggettività assoluta, dell'altro si dipartono e protendono a quello spazio religioso di cui ho accennato, e che per ragioni anche non senza un appoggio alla tradizione, non certo per sollecitazione del nichilismo inteso come pessimismo e negazione dei valori e del valore, mi è parso di dover riprendere. Crisi della fede non è dunque sinonimo di crisi del religioso. La crisi della fede può avvenire per un potenziamento del religioso. Senti, caro moderatore, guarda, tu mi dicessi quanto devo parlare a questa domanda, a questa interrogazione, che perché un relatore specialmente in questa sede, non solo per il tema del silenzio che è fondamentale, fondante anche il grundloser grund, per non offendere Vasco, amico Vasco, perché il grund, il fondamento, per carità, il professor Vannini giustamente suggerisce nella sua introduzione a tradurlo come il fondo insondabile, non è, questo è il significato più autentico anche in filosofia oggi, non è il fundamentum come la pietra, è vero, il concetto con posseduto il quale io possiedo la, e crisi della fede dunque non è dunque fino alla crisi del religioso. La crisi della fede può avvenire per un potenziamento del religioso. Ah, dicevo, moderatore, quando è venuta l'ora, retoritora, me lo dici, io mi fermo. Ma è così, la legge, dura legge, se da legge. Crisi della fede non è dunque sinonimo crisi del religioso, di crisi del religioso. La crisi della fede può avvenire per un potenziamento del religioso. Sempre comunque il potenziamento e l'affinamento del religioso implica di necessità. La crisi di ogni raggiunta figura della fede e della corrispettiva figura dell'etos e dell'etos. Crisi della fede è sinonimo di morte di Dio. Anche Dio è quello che si dice il fondatore, uno dei fondatori dell'ateismo moderno, fa un'osservazione capitale in questo caso, mi pare proprio in una nota all'inizio, non è mica di un'opera poco nota, ma niente meno che Das Wesen des Christentums, del senso del cristianesimo. Dice appunto, stiamo attenti a usare la parola Dio, perché se c'è una parola che ha infiniti sensi, è la parola Dio. Dio è stato detto, proprio anche questo è un esempio massimo, tonne, anche occhio, con la corte, lei che sai. Ma cerchiamo di pensare alla morte di Dio. Quando parliamo della morte di Dio, non parliamo della morte degli dei greci, per esempio. Quantunque parlare della morte degli dei greci, per esempio, per Walter Friedrich Otto, degli dei della Grecia, di Peter Grichelland, di Teofania, vorrebbe dire parlare della morte di Dio. Bisogna vedere che intendiamo per gli dei della Grecia. L'interpretazione dell'Olimpo è quella splendida a suo modo. Fantastica, ma a suo modo splendida, come di tutte le cose fantastiche, anche fortemente storiche, neanche vanno apposta, di Walter Friedrich Otto, allora la scomparsa degli dei della Grecia può essere un momento dell'esperienza della morte di Dio. Ma se per gli dei hanno quell'importanza, gli dei di cui parla Orazio hanno nella vita di un singolo quell'importanza, o quella presenza che avevano gli dei che nomina Orazio nelle sue ode, e parlare in questo caso della morte di questi dei come della morte di Dio, o assumere, sarebbe quanto mai strano. Se dicendo Dio però, si intende colui o quello nel significato neutro, ma un neutro tutto speciale, che dona e assicura il senso di ciò che è stato, è, sarà nella sterminatezza del tempo e dello spazio. Se crisi si intende come perdita non di una figura di fede, ma della fede in assoluto, è evidente allora che crisi della fede e morte, o quantomeno sparizione o assenza di Dio, sono sinonimi. Ma che significa morte di Dio? Può Dio morire? Come nel caso lo possa muore? Poiché rigorosamente parlando nemmeno il padre e la madre muoiono. Il loro essere morti significa per il figlio che ad essi sopravvive un loro diverso modo di essere con lui, per, o anche non è escluso, contro di lui. Li chiamiamo, ripensandoli nel nome in cui si è parte ultimamente si unificassero, gli essenziali nomi divini. Dio dunque come colui o quello che dona e assicura la pienezza del senso o che è lo stesso del valore, la sostanza di eternità di quanto esiste. Dio come colui o quello che questo compimento realizza ha rispetto a quel punto iniziale e terminale in cui il mondo trae la staturismo e la struttura o legge del suo essere, del suo potere o non poter essere, del suo avere ed essere, Dio come creatore. Lì, assicura il compimento del senso rispetto al corso del mondo. Dio come il provvido reggitore del corso della storia, del mondo della storia. Sì, rispetto, ultimamente sempre, ai singoli e agli individui. Per singoli intendo gli esseri umani, per individui gli esseri subumani, cioè il problema della sventura, del dolore dell'animale, un problema che l'Oriente ha sentito e che giustamente Schopenhauer diceva è un'ignominia del pensiero occidentale aver sentito così poco, e dal pianto filosofico e il piano etico il problema dell'animale. E dunque, perché Cosmo dice ultimamente questo problema di Dio come colui che realizza, che attua in assoluto Dio, il compimento del senso, va a, come punto di riferimento, un po' pensarci se non un riferimento a dei singoli o degli individui, magari diversi da quelli che noi conosciamo, ma comunque c'è anche. Poiché cosmo, corso del mondo, corso della storia, comunità o ecclesia hanno realtà e di senso o non senso solo nei singoli e negli individui. La storia della salvezza è necessariamente sempre in una coscienza religiosa evoluta, salvezza ecclesiale. Ma salvezza ecclesiale come salvezza di singoli, salvezza singolarizzata insieme. Dio allora, come l'archè e il teos, l'alfa e l'omega, di una ispirazione e di una invocazione soterica, perché questo è proprio della profonda coscienza religiosa, e si ritrova nella mistica, e si ritrova nel pensiero. Andiamo come esempio degli esempi di Hegel. Hegel. Chi fa che l'uomo predi? Ma direi che il pensiero è nella lettera ai Romani di Paolo. E qui c'è un passo di una lettera ai Romani di Paolo, che questo pensiero è chiarissimo. Quello che fa che noi preghiamo è lo spirito. Questo è lo spirito che muove l'invocazione, che muove l'interrogazione, che muove eccetera. Anche lo spirito poi la paga in legge, questo è un altro conto, però il concetto questo è un concetto fondamentale della preghiera. Quindi l'invocazione stessa in un certo senso esiste perché esiste l'ispirazione da un qualche, se non da Dio, da un Dio positivo, da uno spazio di Dio, dal divino, non lo so, insomma. Ma questo nella coscienza, dico, non sono fantasie, fantasie di secondo ordine, sono fantasie centrali nei pensieri più profondi, religiosi, filosofici, che l'umanità conosce, che si possono prendere alla leggera. Questo non contiene la parte, la chiave, non della parola. Dio allora come l'archè e il teos di una ispirazione e di una invocazione soterica. Dio come il tuo assoluto della preghiera autentica, la quale come tale, nell'atto in cui chiede, da qui presente evidentemente la preghiera di petizione, non la preghiera di lode o di ringraziamento, la liberazione nell'atto che chiede la liberazione a una preghiera autentica da un concreto male o l'aiuto al conseguimento di un concreto bene, chiede intrinsecamente sempre la liberazione dal male, dal peccato immondo, l'attingimento in questo o quel bene, del summum bonum, della gioia ionios di Giovanni, dell'eternità, che è un passo nel rituale romano che è stato osservato nelle modificazioni liturgiche del battesimo, in cui il sacerdote chiedeva battezzatore al battezzando. Ed è peggio ad Ecclesia Dei che battezzando o chi per lui il padrino rispondeva vita eterna. Se si pensa veramente in silenzio la parola vitam aeternam, credo che questa non è la risposta del battezzando, questa non è quello che specifica il battezzando, ma è l'uomo come uomo, quid pecis, in quanto viene al mondo, quid pecis, oh. L'unica risposta è questa, vitam aeternam. La vita eterna non è necessariamente legato questo pensiero all'idea. È un pensiero universale, non è necessariamente legato alla fede in Cristo. Anche qualunque uomo, in qualunque momento della vita, nel suo profondo, in qualunque sera, pensi su questo. Pare che sia la concreta petizione della sua vita. Vede non una figura di vita e di mondo diversa, ma sempre entro la vicenda di questa terra e sotto questo cielo. Vede intrinsecamente sempre nuova terra, altra terra, sotto un nuovo cielo, sotto altro cielo. Ogni preghiera autentica è nella sua immalità. La sua irrepetibilità singolaristica e situazionale, in qualche segreto modo, sempre universalmente, anzi cosmicamente, anche questo è paolino, liturgica, i genti sommi creature, no? Pace spettive ed escatologica. Il Tabor può essere qui un simbolo. Il Dio dunque di cui con tanta disinvoltura si chiacchiera scontata la morte, quale abisso tra tanto vano discorrere di teologi e filosofi su questo tema e l'annuncio dell'uomo folle nella pagina terribile e sublime di Nietzsche nella Gaia Scienza. Sarebbe dunque questo, il Dio che muore, che è morto, sarebbe dunque questo, il Dio Logos en arche, verbum in principio, verbo nel significato da pianeta, dunque del senso, perché questo è il logos, come è stato richiamato fino dal direttore, ma fino a sì, nelle parole iniziali, è il senso, questo è il significato del profondo della parola. La parola è parola in quanto in qualsiasi parola c'è un senso, e questo senso non è il significato, la vedoitum, è il zin, è il senso profondo, qualunque parola dita ha senso, quando è filtrata di un senso ultimo, insomma, di una... Il Dio dice, sarebbe quello che è morto, sarebbe questo Dio, il Dio Logos en arche, Logos stesso arche, e quindi anche tutelus. Il Dio che nell'ultimo dei giorni, secondo la stupenda parola dell'Apocalisse 21:15, che è un passo tra i più splendidi di tutta la letteratura religiosa di tutti i tempi, il Dio che cai Napoli e panta, omnia facit nova. Ancora ci si chiede, può questo Dio morire? Morirà Dio, ma quello che discende sale, discende dallo spazio deserto di lui, or sale allo spazio deserto di lui, non pare possa morire. Che nell'inizio, non nell'inizio temporale, ma nell'inizio ontologico, si sia iscritto il senso. Non è una richiesta così contingente, no? non è una richiesta che vogliono il cuore dell'uomo, perché vorrebbe dire allora la fine dell'uomo. E analogamente che tutto quello che è stato assurdo è stato assurdo, fenomenicamente assurdo, non sia stato, tutto quello che accade di assurdo possa non essere assurdo, anche questo non è una cosa che possa morire. Allora dovremmo perlomeno distinguere l'essere stato, non è l'essere passato, l'essere passato non è l'essere stato. Questa distinzione heideggeriana è fondamentale in questo caso. Allora, semmai Dio è morto nel significato, è passato quella cosa, ma no, ma è stato. E l'essere stato vuol dire che continua ad essere in qualche modo. La sua morte non è per caso, ancora si chiede, può questo Dio morire? La sua morte non è per caso la sua trasfigurazione? Come si configura il problema del compimento del senso per tutti e per tutto? Oti eno teo pantan agin, e dice ut sit om deus omnia in omnibus. Paolo ancora. Come si configura il problema del compimento del senso per tutti e per tutto, il problema della compiuta eternità? Fine con questa eventuale trasfigurazione. Queste sono le domande sulle quali naturalmente soffermo, perché l'ora passa. Sofferemo, cioè non sofferemo, ci fermeremo, così diverso. Gli spiriti religiosi, oranti, mistici, operanti, poeti, filosofi che fossero, hanno sempre avvertito che nell'urgrund, abgrund, nel fondo appunto insondabile, nell'abisso di Dio e del divino, quei nomi divini indicanti i momenti dell'indivisibile evento esoterico compientesi in quell'abisso, dovevano essere trafesi da Dionigi, lo pseudo Dionigi, l'aeropagita, Gesù, pensino a Dante, ecco, su fino a Jasper, se ricordano la teoria delle cifre, o allo Heidegger, dell'essere, quei nomi divini indicanti i momenti dell'indivisibile evento esoterico compiente dovevano essere trascesi. Quei nomi indicanti processi invocativi o problematici impossibili a interpretarsi senza una certa presenza di eternità all'interno del tempo, quando si arrivava all'evento in cui l'eterno si fa assoluto, necessariamente naufrago. È la parola di Asso, che lo sai per me. Alla loro parola accennante al compimento dell'evento assoluto sottentre il silenzio. Palesemente la parola di quei nomi è impensabile senza il presupposto di questo silenzio. In realtà mistero la creazione, mistero la redenzione, mistero che cosa, come può avvenire questo oximoron che ti dice la remissione dei peccati. Come può essere rimesso un peccato? A fine chi si pensa, si profonda, appunto, pensando veramente, seriamente, si profonda nell'oscuro, nel mistero. Eppure l'uomo vorrebbe che i peccati fossero morire. Perché anche quando il mistico ha la resignatio ad infernum, si trova spesso, quelli che credevano potentemente nel Dio positivo arrivavano a dire quello che Dio vuole. Ed è, e io lo devo volere, lui vuole la mia dannazione. Ebbene, io voglio la mia dannazione, perché devo identificarmi. Il suo volontà è nostra parte, dice Piccata nel testo di Dante. anche questi, molto discutibile, ma anche questo ha da fare con la remissione dei peccati, ma è comprensibile ancora il mistero. Mistero il giudizio finale, che è innanzitutto il giudizio del mondo, crisi e cosmo. Meglio per il peccato, ma che ontologicamente lo segna, e non solo giudizio di tutti e di ciascuno relativamente al loro peccare, e il loro peccato. E questo è il tema più profondo dell'escatologismo, del pensiero escatologico. E questo mondo qui, questa storia qui, si dovesse protrarre indefinitamente, mai potrebbe attuarlo. Non in singoli, né in prospettiva singolaristica, né in prospettiva diversa che si potrebbe attuare il bene in assoluto, il summum bono, il compimento del senso. Ma perché è segnata da questo peccato? Che cos'è questo benedetto peccato ontologico, questo male? Ecco, è molto semplice da dire. Io posso lottare contro questo o quella malattia, ma la morbidità è inscritta nella natura di tutto ciò che esiste. E infatti noi assistiamo a un proliferare di nuove malattie, là dove sono vinte le antiche. Vincere le malattie non è vincere la struttura della morbidità. Vincere le ingiustizie, ecco in fondo la povertà della prospettiva, di certe prospettive storicistiche. Vincere, non so, determinati mali storici. Certe figure dell'ingiustizia non vuol dire vincere l'ingiustizia, la quale infinitamente prolifica e genera altre cose. Questo vuol dire che noi non dobbiamo combattere i mali storici, non dobbiamo combattere le malattie e non dobbiamo combattere le ingiustizie sociali, eccetera, ma no, questo è una parodia di questo pensiero, la caduta di questo pensiero. Solo invece questo pensiero è il vero modo per capire, prima di tutto perché di fronte a questo pensiero terribile bisogna avere una risposta, per cui questo enigma diventa perlomeno mistero, si intravede una certa luce. Di fronte al destino di certi disgraziati che nascono, focomelici, che nascono, eccetera, che cosa dobbiamo dire? Fenomenicamente non c'è un senso. Che cosa possiamo suggerire? E allora bisogna intravedere un qualche luce di senso in quello che fenomenicamente per volere la vita e per combattere la vita, se no c'è solo la nolunta. Razionalmente, e noi vediamo che questa noluntas non è un pensiero pensato da qualche solitario filosofo, solitario nel significato peggiore della termine, Schopenhauer, eccetera. La noluntas ha una invasione oggi nei giovani, è una delle stimmi, degli atteggiamenti più diffusi. Quanti giovani si sentono che dicono, ma io no, la vita sola, no, avrò sempre una compagna, avrò sempre un compagno, ma figli, non parliamone. La nonna se non vuol dire io mi uccido, perché si vuol poco a capire che Leopardi, basta quello che dice il dialogo di Tristano, di Mandro e di Leandro, è uno dei più splendidi documenti umani contro il suicidio. A chi è tentato di suicidio quando viene, mi suggerisce professore, o mi suggerisce amico una cosa da dare a chi è tentato di suicidio, prendi il Timandro e Leandro di Giacomo Leopardi. Noi non abbiamo il diritto perché abbiamo una concezione pessimistica della vita e di trascurare quelli che ci sono affidati. Potremmo dire, non mettiamo al mondo anche, questo è un altro conto, ma non, il nostro dovere anche col cane non viene meno. Potremmo porgorargli un'eutanasia, più dal più, ma dobbiamo preoccuparci fino all'ultimo. È una cosa meravigliosa. Perciò la famosa sentenza con cui si inizia, mi pare, il mito di fisico, di Camus, tanto ripetuta, eccetera, a me pare piuttosto volgare. E un grande estimatore di Camus da sempre, è stato uno degli autori vero della mia generazione, e per carità non vorrei che questa parola che riguarda un punto della sua facesse fraintendere un atteggiamento di profondo rispetto per Camus. Ma quando dice il problema dei problemi è il problema che valga la pena di vivere, quindi il problema del suicidio, no? Il problema se valga la pena di vivere può avere una risposta negativa, ma questo non consente il suicidio. La nolunta sarà, non facciamo che nuove vite non vengano in questa fase, ma questa è un'altra cosa. Le vite che ci sono devono essere, quindi sono due problemi molto diversi. E bene, così termino, perché capisco che e l'ora sta, e ora o non ora comunque, e dobbiamo finire, io devo finire, essere finiti. Allora, in quest'ultima parte, del mistero, ecco, cercavo di chiarire questo benedetto concetto del nulla religioso, come questo nostro nulla, nulla come spazio trascendentale del religioso, in che rapporto sia con nulla della tradizione mistica, con nulla da Plotino a Scopo di Rugena, a Meister Eckhart, eccetera. Che cosa distingue il nulla della mistica, della teologia negativa, dal nulla che costituisce uno dei poli fondamentali della dialettica del nichilismo? Ma del nichilismo è inteso appunto in base al nichil con l'N maiuscola, non al nichil. Anch'io penso, ho scritto, scrivo e parlo del nichilismo. E certo sono molto perplesso, data appunto troppo. Le parole che si sono scritte, si scrivono e diventano vero sul nichilismo. Ma mi permetto ancora di, tanto non posso peccare troppo con le parole, dato gli anni che ho, e mi permetto di usare questo termine, perché avverto sempre che il nichilismo lo uso in base al nichil con l'N maiuscolo, non al nichil o nil, come si diceva nelle scuole a noi, nichil con l'N minuscolo. Il nulla dei mistici e della teologia negativa con questo nulla trascendentale, questo era l'altro punto che mi piacerà, la distinzione di questo nulla religioso dal sacro di Rudolf Otto. E il nulla come quello da cui viene la domanda, ma anche sempre una risposta, nulla trascendentale, che però non è mai nell'atto che in certo senso è la crisi di tutte le figure di fede e delle corrispettive figure di etos e di etica, nell'atto che in certo senso distrugge ogni figura che è nel cielo e sulla terra, ogni figura di Dio e ogni figura della terra, nell'atto che fa questo anche l'Asia sempre subito risorge. E nello spazio dei cieli e sulla terra altra figura di Dio o del divino. Esempio può essere ancora Giacomo Leopardi, in cui nulla sembra essere solo il nulla appunto di un silenzio distruttore. Pensino a quella sinfonia del nulla, del niente, del nulla, del niente anche, della morte, sinfonia della morte. Che l'operetta morale, il cantico del Gallo Silvestre, Eppure il cantico del gallo silvestre, anche lì dominante, non è il niente della morte, la vanita tenare in questo spazio di silenzio leopolitico, in cui è il pastore errante dell'Asia, in quel momento non errante. È un silenzio in cui si compie nello stesso tempo l'interrogazione, ma il nulla, questo trascendentale, come tutti i concetti, per essere pensati devono appoggiarsi in immagini. Anche questo nulla, che è sempre trascendentale nel significato, che sempre ancora trascende, sempre è un'ulteriorità infinita. E questo nulla prende una figura, è la figura degli internati spazi, dei sovrumani silenzi, dell'altissima pietra, che lui aveva 20 anni, quando l'aveva già iniziato così splendidamente. Prende una figura, diventa metafora. Che cosa c'è? Primo da osservare che nulla trascendentale, anche quando non riprende una figura di Dio, riprende una figura del divino. E qualche cosa degli antichi attributi, degli antichi nomi, è ancora visibile, sempre in un modo che deve essere trasceso di questo che ha preso lo posto dell'antico Dio. Anche questo nulla che si è concretato in questi interminati spazi lata, no? È a suo modo catartico, consolatore, almeno in quel momento, sospende. Ecco un esempio di questo, ma non è detto che questo non debba avere semplicemente questa fiducia. Chiudo riassumendo così, un po' secondo la logica, abbiamo pazienza, il filo logico adesso in quest'ultima parte forse verrà meno. Ecco, grazie. È quello che mi propongo sempre nel mio insegnamento e nel mio quale che sia discorso. E dicevo, la domanda che mi si può fare è che in questo nulla c'è l'a priori ontologico ed etico dell'eterno, cioè di una vita assolutamente giustificata. E questo è quello che noi dobbiamo cercare. E allora, di tutte le altre cose posso, ma mi preme dire questo, e chiuderò con delle parole che ho scritto, ma far vedere come questo motivo ontologico, questo imperativo che trapassa tutte le creature e che trapassa il mondo e si fa parola nell'uomo, si fa coscienza e parola nell'uomo, perciò lo stupendo mito che ritorna in tutti i grandi pensatori, nell'uomo si raccoglie tutti i corpi, la parola dell'uomo, nell'invocazione dell'uomo, nella preghiera dell'uomo, nell'interrogazione dell'uomo, nella poiesi dell'uomo, nel poema dell'uomo che l'uomo canta. Dolente e si raccoglie tutto il mondo, come questo imperativo che trapassa, è raccolto, che è un'invocazione, è un'impotenza per l'uomo, è però anche il fondamento del suo imperativo etico, l'imperativo degli imperativi. Mi lasci 3 minuti? Allora cercherò di rendere l'imperativo fondamentale. E questo imperativo questo è Sonnenschein, questo deve essere ontologicamente che si fa in due Wolf, l'ha espresso stupendamente Kant nella critica della ragion pratica dialettica. Scrive: la legge morale comanda che io faccia del sommo bene possibile in un mondo l'oggetto ultimo di tutta la mia condotta. E ancora: il sommo bene è pertanto il fine necessario e supremo di una volontà moralmente determinata, un vero oggetto della ragione pratica. La ragione pratica, ragione che secondo lo spirito più vero della filosofia kantiana è uguale in Dio e nell'uomo, questo suolo può ultimamente volere comandare. Il summum bonum, cioè un essere, il significato verbale, che sia insieme compiutamente buono e compiutamente felice. Quando si traduca buono, gut, con recante di sé valore, sostanziato di valore, verso full, le due parole kantiane, gut e glückwunsch, appaiono come i due più potenti cenni sul mistero dell'Eterno, sulla sua natura e sul modo con cui immanentemente opera nell'anima dell'uomo. Si tratta, ovvio, di parole antiche, molto antiche, per merito di Kant averle collocate in un punto in cui esse possono rivelare pienamente la loro forza chiarificante. Il summum bonum come figura eternitatis e come incoatio eternitatis non è negato all'uomo. Si pensi piuttosto che gli esempi più spesso addotti al riguardo a un fatto certo non secondario per la riflessione etica. Ci sono conquiste di valore ed esperienze di valore che portano in sé luce e pienezza spirituale e quasi nessuna ombra di legata d'azione. Quando poniamo un uomo, sia pure attraverso la fatica e il rischio, conquista una illuminazione poetica, una prospettiva di verità, una umana creativa forma di comunicazione, un risultato pratico-politico oggettivamente utile, senza che ciò significhi per alcuno lacrime e sangue, ebbene quell'uomo è buono in quanto si preoccupa di realizzare un bene ed è felice, perché sperimenta il valore, certo sempre in misura finita, ma non nella figura della dilacerazione. Che cosa ciò significa lo possiamo capire quando pensiamo al modo con cui è dato di essere buono, di esperire il bene, il valore a un malato, a un paralitico, un poco medico, un vecchio nella fase di ricovero, un prigioniero nei campi di concentramento. Certo, significherebbe la fine per l'etica se questa non riuscisse a scorgere la possibilità di un barlume di eternità anche in tali situazioni. Costituisce la grandezza dell'etica cristiana l'aver saputo vedere in quel barlume una luce potente. Costituisce l'aspetto di miseria dell'etica moderna, posteriore a Kant, l'aver fatto oggetto di riflessione solo il valore dell'agere, restando così esile e fragile di fronte alla sofferenza fenomenicamente inutile. Strano fatto, e si pensa quanto contribuito l'agire, specie nella forma in cui viene spesso bratilogicamente proclamato, apporta a questa figura della sofferenza. Quali comunque possono essere, sta di fatto, che da quali comunque siano le possibili riserve da sollevare rispetto a questo pensiero, sta di fatto che la distinzione tra un bonum cum laetitia coniuntum e un bonum laetitia destitutum, e qui finisco, rimanda a un'antinomia centrale dell'etica. Malgrado le beatitudini, beati qui lucem, beati qui persecutionum faciuntur propter justitiam, in forza delle beatitudini, il compito etico anche in prospettiva cristiana rimane quello di promuovere con l'impegno operoso la prima figura del bonum, di ridurre, di eliminare se possibile la seconda. E quindi, thank you.